l'impatto della crisi, che inizialmente è stato meno violento sul Mezzogiorno, poi nel medio termine invece si è rivelato drammatico. E questo dipende semplicemente dal fatto che il tessuto produttivo è più fragile, le imprese sono più piccole e quindi c'è una minore propensione sia all'innovazione che all'export, che pure complessivamente va bene, ma non in misura tale da compensare quello che è il problema dei problemi in tutta Italia e ancor più nel sud, cioè il crollo dei consumi interni. Quindi il punto è trovare un equilibrio, in particolar modo attivare quella spesa pubblica sana, non di natura non assistenziale, cioè per investimenti da un lato, e sbloccare il meccanismo dall'altro del patto di stabilità, che come è noto strangola le amministrazioni che non sono in grado di esprimere capacità di spesa. Quindi non è soltanto una richiesta di interventi, ma anche una richiesta, diciamo, di rilancio dei consumi, perché dai consumi, secondo lei, derivano anche la sopravvivenza delle imprese? Questo è un tema che vale negli Stati Uniti come in Germania, vale ovviamente moltissimo in Italia e ancor più nel Mezzogiorno d'Italia. E quindi l'obiettivo è quello di spezzare questa drammatica discesa dei dati relativi all'occupazione e ai redditi, perché è di lì che si deve, o è questo uno dei punti di ripartenza fondamentali per riattivare il sistema. Per fare un esempio, una linea di lavoro molto importante è quella che è stata attivata con il Ministero della Coesione per accelerare in maniera non dissennata e casuale la spesa dei fondi strutturali, che presentava parecchie criticità. Poi il Mezzogiorno ovviamente ha differenze tra zona e zona e intensità di problemi diversi, alla fine però il dato sintetico è quello che abbiamo descritto nella nostra nota. Ecco, per quanto riguarda addirittura appunto l'occupazione, c'è un dato che è peggiore rispetto alla media, diciamo, dell'Italia, cioè a 4 anni dal diploma meno della metà al lavoro proprio al sud. Questo dato peggiora. Secondo lei come si trattengono i talenti? Non c'è dubbio, perché dove l'impresa è più piccola c'è anche minore capacità di assorbire coloro i quali si affacciano al mondo del lavoro. Ci aggiunga il tema che è molto delicato, e cioè che la frenata che c'è stata per un verso delle uscite per pensione e dall'altro, come vedremo in realtà soprattutto alla fine di quest'anno, le restrizioni che ci sono sui contratti a progetto e soprattutto le collaborazioni a progetto, questo produrrà come insieme un problema che nel sud si risentirà maggiormente che nel centro-nord. Ci vuole un'iniziativa forte da parte delle imprese e degli imprenditori, ma ci vuole anche un'azione pubblica robusta, tant'è che se io dovessi adottare uno slogan non direi più Stato meno mercato, e tantomeno più mercato meno Stato. Qui ci vuole più mercato e più Stato, cioè più iniziativa privata, ma sistemi di regole e politiche pubbliche che siano trasparenti e credibili.